Le strade della comunicazione. Nel marketing moderno vince chi riesce ad affermare la propria marca nella mente del consumatore e ad avere spazio nelle reti di vendita, fisiche e virtuali. Tecniche di marketing moderno per nuovi professionisti che sappiano costruire una relazione con i clienti. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Brand manager. È il responsabile della creazione e della promozione di una linea di prodotti o di un marchio. Deve quindi essere in grado di pianificare obiettivi, strategie e azioni per la produzione e la vendita. Grazie alla conoscenza approfondita del mercato e delle dinamiche del consumo. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in marketing, consumi e comunicazione dell'Università Yulm. www.yulm.it